Cari amici, ho avuto modo di annunciarvi tutto l'anno che il centro della nostra fede è Gesù e la sua storia di salvezza. E abbiamo percorso dall'Avvento al Natale, all'Epifania, tutto il cammino con Gesù per arrivare al giorno d'oggi, il giorno in cui Lui dona la sua vita per la salvezza. Gesù la chiama, è la mia ora, è il suo momento. Perché non dimentichiamo che Gesù è venuto sulla terra per salvarci dai peccati. Sono cose che noi diciamo, ripetiamo, sappiamo a memoria, ma varrebbe la pena ripercorrerle per salvarci dai peccati, morendo per noi sulla croce con il suo sangue. Questo è sempre stato per i cristiani il clou, il vertice della loro fede e della vita di Gesù. E la Chiesa nel corso dei 2000 anni ha messo in piedi tante di quelle situazioni per onorare, meditare, sottolineare questa realtà che è impressionante conoscere la storia di 2000 anni della Chiesa su questo. Qualche residuo è rimasto ancora oggi. Per esempio, ci sono in mezza Italia, ma anche in Europa, durante la Settimana Santa, ancora gesti di tradizione, oggi sono diventati folcloristici ed è più la gente ai bordi della strada col cellulare che fotografa che non quelli che partecipano, ma le sacre processioni, le sacre rappresentazioni. Se vi capita di dover incontrarne qualcuna, non perdetela. Io sono andato un po' di anni fa a Sordevolo, qui sul Biellese, dove da centinaia d'anni, da secoli, tutto il paese recita, ma dal vivo, decine e decine di volte, e vengono pullman dappertutto, la passione di Cristo. Amici, partecipiamo a questi momenti perché sono veri, il popolo li vive. E chi di noi partecipa ne è coinvolto. Ma se voi guardate la musica sacra, io ho avuto modo, e lo farò ancora anche questa settimana, di riascoltare lo Stabat Mater di Giambattista Pergolesi, una realtà straordinaria, conosciuta in tutto il mondo. Ma se voi andate, oggi è facilissimo, su ogni cellulare, potete trovare su alcune piattaforme, potete trovare tantissime di queste manifestazioni o canti religiosi. Basta digitare canti religiosi, ti viene fuori una sfilza di cose. Amici, vale la pena che noi dobbiamo ricostruire questo, perché il mondo se l'è mangiato fuori. Io a 76 anni ricordo che facciamo 60 anni fa, 55 anni fa, la radiotelevisione pubblica nei 3 giorni della Passione sospendeva i programmi e trasmetteva musica classica. Non so se vi ricordate, io me la ricordo molto bene. Ero appassionato di musica classica e me la godevo. La televisione, la radiotelevisione italiana, per tutto il popolo, oggi faremmo ridere, siamo lontani 1000 miglia, oggi sono altre. Per questo, amici, dobbiamo ricostruire noi questi capolavori che la fede, la tradizione di fede ci ha lasciato. Rappresentazioni, canti, spettacoli e liturgia, liturgia. Amici, la Settimana Santa è un momento di una ricchezza straordinaria di testi, di riflessioni, di letture. Per questo vi invito, ma vi invito caldamente, fate di questa settimana santa un momento forte della vostra vita. Nelle parrocchie precedenti io ho visto al Venerdì Santo che si riempiva la chiesa di... La mia chiesa aveva 800 posti a sedere, Si riempiva e c'era gente che chiedeva mezza giornata di ferie per venire alla celebrazione del Venerdì Santo, ma non molti anni fa. Gente che in quei giorni della Settimana Santa portava in chiesa i bambini al bacio del crocifisso, gente che faceva il giro, una volta si chiamavano i sepolcri, gli scuroli, oratori in bicicletta con il loro prete in giro a girare. Non lasciamo perdere, amici, questo. È così difficile decidere di venire in questa settimana tutti i giorni a messa? È così difficile? O che cosa noi mettiamo al centro della nostra fede? Basta andare a letto prima, spegnere la televisione e alzarsi un'ora prima. Cari amici, io vi invito caldamente e ne avrete un beneficio spirituale e un godimento dell'anima. Se invece vogliamo andare avanti ordinariamente, trascurando, dimenticando il digiuno del Venerdì Santo, dimenticando, come forse qualcuno avrà fatto, il magro dei venerdì di Quaresima, dimenticando quello che la tradizione ci ha consegnato come eredità preziosa, la confessione pasquale, la comunione pasquale, ma non finirei più di dire ciò che era il fulcro della fede dei nostri padri. E noi lo lasciamo perdere così? Noi siamo tutti attenti a non rovinare il creato, a non rovinare le fonti di energia non rinnovabile, perché dici, una volta che ce le siamo mangiate fuori non ci sono più. Ma guardate che la stessa cosa vale anche per la fede. Noi ci mangiamo fuori la nostra fede, e ai nostri figli che cosa trasmetteremo, amici? Il vuoto. Perché dimenticare che Dio è il nostro creatore, è il nostro redentore ed è colui che ci giudicherà, noi vuol dire tradire il nostro destino, tradire la nostra esistenza. Coraggio, amici. Conserviamo noi queste realtà, ma per conservarle dobbiamo vivificarle. Io vi invito a non mancare in questa settimana alla messa quotidiana, vi invito a non mancare alle funzioni del Triduo Santo. Ma quante cose non finirei più. Adesso ve ne diremo gli ulivi, li porterete a casa. Anche gente che non viene in chiesa e voi magari sono vostri vicini di casa e glielo portate, lo gradiscono. Dobbiamo rivitalizzare, amici, la nostra fede con i suoi gesti, perché la nostra salvezza non sta nella Champions League, tanto siamo fuori. La nostra salvezza non sta nelle partite del secolo, che sono sempre così le settimane prima e due giorni dopo sono già nel dimenticatoio. La nostra salvezza sta in Gesù Cristo, il Salvatore dell'universo, che trova nella Settimana Santa la sua morte e la sua risurrezione ancora viva oggi.